GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci, tutto nel segno di Ronaldinho, il raduno del Milan di ieri. Sentiamole allora le prime parole da rossonero del campione brasiliano a Milan Channel. Muy contento, no? Después de tanto tiempo, contentissimo di llegar aquí y espero dar mucha alegría a todos. Sei felice che ci sono tanti brasiliani, Kaká, Pato? Contentissimo, no, non solo per lo brasileño. Pero por todos los jugadores que son todos grandísimos, entonces estoy contento por todo, por estar con los brasileños, con los demás jugadores también. Adriano Galliani sull'arrivo del fantasista. Ronaldinho assolutamente è sempre stato un nostro primario obiettivo, quindi non è una seconda scelta, ma è assolutissimamente una prima scelta. Al via anche la stagione dell'Inter, Mourinho non rinuncia all'idea di strappare Lampard al Chelsea. Per me un uomo vincente, un giocatore vincente, un allenatore vincente, è quello che vince e vuole vincere di nuovo e non è mai stanco di vincere. Essere onesto, essere diretto, essere ambizioso, penso che sono caratteristiche che non voglio perdere mai. 4-3-3 è un modulo che mi piace veramente, ma quando parlo di 4-3-3 parlo di giocare con tre giocatori puro di attacco. Io ho bisogno di un altro centrocampista. L'ho detto ai giocatori. E mi piacerebbe tanto avere un centrocampista con qualità diverse di quello che sono i nostri centrocampisti. Nel ritiro della Fiorentina arriva invece Adrian Mutu. Dopo le voci di mercato che lo davano in partenza verso la Roma, vicina a Baptista, il romeno giura fedeltà ai Viola. Grande voglia di lavorare, grande voglia di rimanere. Sono venuto per quello e c'ho tanto entusiasmo. C'ho già un contratto, quindi sono contento, sto valutando e penso che nei prossimi giorni si farà tutto. E ora il Tour de France, ancora le prese con il doping. La tappa di oggi dovrebbe essere tranquilla, speriamo che la tranquillità regni sovrana anche all'interno di tutta la carovana del Tour. L'ennesimo campanello d'allarme suonato ieri mattina per la seconda positività del secondo corridore spagnolo Moises Duenas ha rigettato nell'apprensione un po' tutti, corridori e organizzatori. Nulla di drammatico, nulla di cui disperare, ma sono sempre inquietanti questi segnali che da una parte segnano una piaga difficile da arginare, ma dall'altra dicono chiaramente che la lotta al doping nel mondo del ciclismo è sempre più serrata, efficace e affidabile. Detto questo, oggi 12ª tappa, tappa sulla carta tranquilla, priva di difficoltà e adatta agli uomini di coraggio o ai velocisti. Dalla Valanet partirà per il terzo giorno consecutivo in maglia gialla Cade Evans, che ha sempre un secondo di vantaggio sul lussemburghese Frank Schleck. Per questo stagio Giro 24, il Sole 24 Ore, la Valanet. Per il nuoto, buone notizie in prospettiva. Olimpiadi, Alessia Filippi ha stabilito infatti il nuovo record europeo sui 1500 metri stile libero nella prima giornata dei campionati assoluti italiani. La nuotatrice romana ha vinto la finale con il tempo di 15 minuti 52 secondi 84, terzo tempo di sempre, 3 secondi in meno del precedente primato della Svizzera Rigamonti. Niente Olimpiadi invece, almeno nella prova individuale, per Oscar Pistorius. L'atleta sudafricano che corre con le protesi alle gambe ha fallito a Lucerna l'ultima possibilità di centrare il minimo olimpico, 45 secondi e 55 sulla distanza dei 400 metri, correndo in 46 e 26, comunque suo record personale. L'ultima chance per Pistorius di volare a Pechino è legata alla scelta o meno della Federazione Sudafricana di convocarlo per la staffetta 4x400. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.